passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione. La Zanzara di Giuseppe Cruciani. Ma intanto girano, girano, girano. Sapessi come mi girano. Girano. E quanto girano secondo te, caro Parenzo, agli elettori della Lega e queste notizie? Quando, quando vengono a sapere queste notizie, quanto possono girare? Dimmi la verità. Beh, direi a 10.000 almeno. E il signor Belsito, che dopo una giornata di mezze smentite, di reticenze, anche uno scontro che abbiamo avuto ieri alla radio con il signor Stiffoni, col senatore Stiffoni, che vuole guerrare, non si capisce per quale motivo. Salutiamo con affetto. Lo abbracciamo fortissimo. Il signor Belsito ha riconsegnato, anzi tramite il suo avvocato, ha riconsegnato diamanti e lingotti comprati. Capito? Diamanti e lingotti. Che hai detto? Scusa, non ho capito. No, dico scetticismo no, dico agli amici della Lega, scetticismo no. Ma che vuol dire ancora con sto scetticismo? Nessuno capisce nulla di questa cosa, spiegati, non ha capito nessuno. Scetticismo no, scetticismo no. Ma che vuol dire scetticismo? Spiegati, la gente non capisce, non essere criptico. Se tu prendi un pendolo, se hai un dolore, prendi un pendolo e lo metti sopra una pancia o sopra la... Ci sono questi metodi di medicina alternativa, quindi scetticismo no, vale anche per la politica. Vabbè. Questa fase scetticismo. Però o ti spieghi oppure non resta una cosa, una follia così sul nulla. No, vabbè. Deve rimanere un mistero, verrà svelato delle cose. Ma non gliene frega niente a nessuno dei tuoi misteri. Cioè, scetticismo no, vabbè. Radio Padania, investite in diamanti qualche tempo fa, sentite. Diamanti, diamanti da investimento come forma alternativa. Signori, l'occasione è veramente importante. Mai come in questo momento storico è meglio non lasciare i nostri soldi sul conto corrente. Investire differenziando, certo. Ne vogliamo sapere di più? Abbiamo in linea Stefano. Ciao Stefano, buongiorno. Buongiorno Sammy, buongiorno a te e buongiorno anche a tutti gli ascoltatori di Radio Padania. Questo accadeva a Radio Padania qualche tempo fa, poi c'è anche un altro spot, i diamanti rendono, chissà se c'è qualche collegamento. D'Alema, anche qui girano a molte persone, girano a molte persone. 145 milioni di euro per i partiti è una cifra infinitesimale rispetto ai soldi pubblici, eccetera, eccetera. Nel 2013 i partiti italiani riceveranno 145 milioni di euro, che è una percentuale infinitesimale delle erogazioni pubbliche, vorrei che fosse chiaro, diciamo. E non è certamente di più. Cifra infinitesimale. Grillo è un impasto di Bossi con il Gabibbo. Addirittura. È questo, dice D'Alema. Addirittura. Sono sottoposto al sacrificio di sentire su internet un pezzo del comizio che ha fatto l'altro giorno Beppe Grillo a Civitavecchia. Non c'è nulla di nuovo, diciamo, è un impasto del primo Bossi contro Roma ladrona e contro gli immigrati, perché è un impasto, il primo Bossi, il Gabibbo. Mi sono venuti in mente gli anni 90, perché questo impasto di Bossi e Gabibbo. E poi Grillo, giusto appunto, con la sua dietrologia di questi tempi. Ieri vicino Milano la Lega è stata fatta fuori, o viene fatta fuori, si vorrebbe far fuori la Lega perché è all'opposizione. Sentite. La Lega non è più sporca di un altro partito, è stata fatta fuori perché era in opposizione. Perché sono leghista da prima ora. È stata fatta fuori perché era in opposizione. La Lega è fatta fuori perché è all'opposizione, poi tocca a noi, tocca agli altri che siamo all'opposizione, un burattinaio dietro tutti quelli che sono all'opposizione, che vuole colpire quelli che sono all'opposizione del governo Monti. Una follia di Grillo, ma una delle frasi del giorno è quella pronunciata in realtà ieri sera dal governatore della Lombardia Formigoni durante l'infedele da Gad Lerner a proposito dei suoi rapporti con Dacco, uno di quelli che si occupa della sanità, un imprenditore sanitario, chiamiamolo così, che ha a che fare con la sanità lombarda e non solo. Formigoni dice: anche Gesù ha sbagliato compagnie. Gesù, Gesù, sentite. Purtroppo nelle cattive compagnie, pensi che perfino Gesù ha sbagliato nello scegliere la compagnia. Uno su 12 l'ha proprio sbagliato, era Giuda, un traditore. Per questo anche il presidente Formigoni può sbagliare e persino Gad Lerner potrebbe sbagliare evangelica. E avere delle cattive compagnie. Siamo qui, 800 24 00 24, primo ospite della serata, caro Parenzo, vicepresidente della Camera, esponente di punta del PDL, Maurizio Lupi, buonasera. Buonasera a tutti, buonasera Parenzo. Comandiamo. Caro Lupi, qui si volano. Allora, comandiamo, finalmente da voi. Finalmente. A dirmi una cosa. Devi sentire la zanzara. Perché? Non riesco a capire perché, però oggi ci sono. Ma come devi, come non riesci a capire perché? È una Lupi? Battuta, quasi come quella di Formigoni, pensate. Ecco, appunto, è una quella di Formigoni è una battuta, perché uno come lei, insomma, cattolica, eccetera, eccetera, non si potrebbe interpretare come una sorta di bestemmia quella di Formigoni? Paragonarsi a Gesù, io Lupi. Faccio il sacerdote e non sono un confessore, le battute sono battute. Ma non era una battuta? Se posso dire, le battute sono battute, possono essere felici e infelici. Questa? A volte ci sono battute infelici. Se posso però dire, la questione che ho percepito io, adesso risentendola, è che tutti possiamo sbagliare. Questo è il punto. Sì, ma questa è una battuta infelice? Anche sentendo, dicendo della Lega, pensate quante volte abbiamo teorizzato duri e puri, roba ladrona, abbiamo le mani pulite, e poi il limite dell'uomo è sempre più grande della nostra volontà. No, questo d'accordo, però perché Formigoni è Gesù, che non toglie ovviamente il giudizio sulle cose che si fanno, ecco. No, ma quello è chiaro, però paragonarsi a Gesù, anche paragone a Gesù credo non possa mai essere fatto. Dunque è una battuta infelice. Anche Roberto, penso, lo chiamo Roberto perché siamo carissimi amici, quindi non penso che volesse paragonarsi a Gesù. Beh, però l'ha fatto, oggettivamente l'ha fatto, poi lasci perdere che non ho sbagliato. Quindi punto a capo, inutile giustificare. E dunque una battuta infelice. Esatto, ne diciamo tante di battute infelici. No, per carità, ma infatti non è mica. Siamo però, ammettendo che non fosse una battuta infelice, siamo nella metafora. Formigoni e Gesù, chi è Giuda? O i Giuda, chi sono? A me queste metafore non piacciono, mi interessa di più la metafora, se vogliamo stare nella metafora, a proposito del vostro e intanto girano, sì. Che se noi che abbiamo delle responsabilità non testimoniamo con tutta la nostra coerenza, incoerenza, eccetera, la verità di quello che facciamo, in questo caso la bontà della politica, non solo agli elettori leghisti gli girano, ma credo che girino tutti i cittadini. È d'accordo. Quindi, però mi scusi un attimo, no? Giuda, dobbiamo cercare ognuno di noi e capire come siamo aiutati a essere non solo coerenti, ma innanzitutto veri nelle azioni che facciamo. Però mi scusi un attimo. È la sfida della vita, no, Cruciani? No, non c'è dubbio, però Lupi. È una grande sfida questa. No, però io. Perché da poi chiudiamo su questa frase di Formigoni. Però mettere in mezzo Gesù su queste cose molto terrene, diciamo la verità, molto terrene, che riguardano indagini, appalti, eccetera, non è una sorta di. Non è un errore gravissimo anche per una persona. Una mezza bestemmia. Ciò che è di Cesare è a Dio ciò che è di Dio, quindi noi lasciamo perdere Gesù. Noi dobbiamo essere giudicati, io in prima persona facendo il vicepresidente della Camera, ed essendo, come lei ha detto, e non credo così tanto, un esponente del Popolo della Libertà, la triade che governa adesso il PDL, dovrò essere giudicato sulle cose terrene, cioè su come faccio politica, sulle azioni che faccio, Formigoni, su come governo la sanità. E mi piacerebbe, se faccio degli errori, mi piacerebbe che sulla Lombardia, così come sul governo nazionale o sul tutto il resto, si sia giudicati su questo. E dunque Formigoni lascia perdere Gesù, questo si può dire, no? È meglio non metterlo in mezzo. Ci sono tanti proverbi che potrebbero essere citati, andiamo avanti. Per esempio? Quella cosa dei santi, no? Cioè? No, lo dico. Andiamo avanti. No, lo dico. Certo. Non seguiamo questa strada, siete bravi poi a portarci. Sui fanti, ma lascia stare i santi. È questo, o no? Fanti. Parenzo. Lupi. Io conosco Parenzo. Lo so. Le discussioni. Senta, non c'è quando troppa. Lei andrebbe in vacanza con Dacò? Ecco, questo è importante. Io andrei in vacanza con Dacò. Cioè, farebbe una vacanza con una persona con che i ha. Miei amici, se sono amico di Dacò, posso andare in vacanza con Dacò. Però, posso andare in vacanza, ma anche qualora con abbia rapporti economici. Ma anche qualora abbia rapporti economici con la regione. Sì, però Parenzo devi imparare. Beh, Parenzo non ha ancora imparato come esatto, funziona la qui. La televisione parlava meglio. Esatto, non ha ancora imparato. Non ha ancora imparato. Stasera ho sentito che ha sbagliato anche il suo nome. Sì, ma non ha ancora imparato bene. Offeso. Si mette in mezzo, va sopra la voce, non ha imparato nulla. Vabbè, ma non fa niente. Le imitazioni se la cava, insomma, se la cavicchia. Senti una cosa, io voglio capire, una persona che ha a che fare legittimamente, questo non lo so, lo decideranno i magistrati, con la sanità in Lombardia, può andare in vacanza con il presidente della regione Lombardia? È opportuno o no? Mi dica la verità, io so che, come la pensa lei, sono quasi sicuro. Primo non c'è nulla di male, ma potrebbe non essere opportuno, no? E dunque non è opportuno? Non è stato opportuno andare in vacanza con D'accordo? Questo si può dire, Lupi, non abbia timore di questo. Questo rientra un po', adesso noi non voglio girarci attorno, rientra appunto un po' nel concetto che noi abbiamo di responsabilità. Io credo che incontriamo nella nostra responsabilità, io ho fatto l'assessore urbanistica, esatto, adesso faccio il vicepresidente della Camera e ho cariche istituzionali, incontriamo decine di persone. A livello istituzionale, non in vacanza. Che fanno i politici, che fanno i cittadini normali. E credo che l'incontro con una persona non sia una cosa indifferente. L'incontro. Che porta per gli interessi che ha. L'incontro istituzionale. Il problema è la correttezza che tu hai nel rapporto con lui. No? Questo io non c'è dubbio. Ho tanti amici e posso anche andare una sera a cena insieme con questi amici. Ma in vacanza è diverso. Vacanza, anche se sono coinvolti con le mie responsabilità e che poi quando governo o quando prendo degli atti, se ho faccio dei favori a questi amici, non li faccio. D'accordo, però mi scusi, Cruciani, per essere molto chiaro, no. Formigoni continua a ribadire, e io ci credo, che nel governo, tant'è che per il momento non è ancora stata cosa, nel governo della sanità pubblica non ha fatto un favore e un interesse a suo amico. E va bene, d'accordo. Poi era opportuno o non era opportuno? Ecco, appunto. Col senno di poi sa quante cose sono opportune. E no, d'accordo, però lei mi ha detto potrebbe non essere opportuno, la conseguenza è non è opportuno andare in vacanza con qualcuno con cui poi tratti degli affari, o sbaglio? Questo si può dire. Possiamo dirlo e andiamo. Si potrebbe dire. Si potrebbe dire. Ma perché ce ne coglionate? No, è perché sono veramente adesso capisco perché ai miei figli piace la vostra trasmissione, perché non date per scontato nulla, siete anche simpatici. Però la cosa interessante, mi piacerebbe discutere questo. Certamente appunto detto, il punto vero è io sono amico di una persona, quanti amici ho? Non è che posso negare di essere amico. Ma infatti non abbiamo detto che Formigoni ha favorito l'amministratore pubblico, e faccio un favore o non glielo faccio, o se do una cosa che merito non guardi merita. Questa qua la sottoscrivo al 100%, Lupi, la sottoscrivo al 100%. Come voi due siete lombardi e mi faccia fare non ma io sono romano, sono romano veramente, e lui è padovano, però ogni tanto viene a Milano, no? No, io abito a Milano, appunto. Allora chi dice romani? Sono romano praticamente adottato dalla Lombardia. Ci vogliamo molto bene, ma mi interessa per esempio che il malato nella struttura pubblica possa essere o privata, ma questo possa lo essere trattato per la dignità. Ma guardi, la sanità lombarda per quello che mi riguarda funziona. Mamma, le faccio questo esempio perché a me piace molto questa cosa. Sì. Mia mamma, che prende 800 euro al mese di pensione, è una pensionata, può andare all'Humanitas, dove prima andavano solo i ricchi, a farsi curare come quello che guadagna 200.000 euro. Ecco, io credo che questo sia un successo. Di è un successo, non nessuno ha paura a nessuno, e non giustifico l'altra roba. Queste sono le cose però belle. Si può dire, possiamo mettere per certo una cosa, dunque la sanità lombarda è un'eccellenza, dice Lupi, e dice anche non è opportuno andare in vacanza col signor Dacò, con qualcuno che si occupa, non è una cosa così bizzarra, traffico. O sbaglio? Traffico. Siamo qui, allora la clessidra scorre, abbiamo pochi minuti, poi Lupi ci deve abbandonare, ma anche noi diamo la linea al giornale radio, la Zanzara entra nel vivo più tardi. Ovvio, solo l'antipasto questo. Voglio chiedere una cosa a Lupi, ricordando la sua fede milanista, ed è questa: quando ha sentito, un po' scherzando naturalmente, non la prendiamo seriamente, non parliamo delle indagini eccetera, quando ha sentito che secondo alcune testimonianze una delle ragazze che ha frequentato le famose cene di Arcole si sarebbe travestita da Ronaldinho, cosa ha pensato? Mi ha scandalizzato di più leggere che una delle ragazze si sarebbe travestito da suora, anche, quindi ho pensato che è più grave travestirsi da suora o da Ronaldinho? Ronaldinho si travestiva anche lui, era un grande giocatore, ma ne faceva di cotte e di crude. Mi sembra che fosse più rispettoso, ovviamente, se è vero, ovviamente qui mettiamo il condizionale, se fosse vero, sì, no? Una mancanza di rispetto certamente per Ronaldinho per Ronaldinho, vabbè. Però, a proposito di mancanza di rispetto, le posso dire una cosa, perché questo nella simpatia di tutti. Lei pensi, continuiamo a parlare di che le imprese falliscono, e voi siete una radio economica. E infatti ci sono molti programmi che pubblica amministrazione non ci sono. Prima lei mi ha fatto dire opportuno, non opportuno, potrebbe, non potrebbe. Però io le dico, non è invece importante che in Regione Lombardia abbiano fatto una legge per pagare in 60 giorni le imprese? Ma che questo si può dire... Pubblica, l'amministrazione pubblica la paghi. Ribadisco, non è una giustificazione. Ma questo si può dire anche in un'altra trasmissione. Si può dire anche in altre trasmissioni, Lubi, dove si può dire anche in altre trasmissioni. Assolutamente sì, però lei mi sta chiamando in questa trasmissione. No. E siccome ha messo a tema giustamente l'argomento del giorno, però non bisogna girarci attorno, credo che nel vedere le ombre e le luci, a volte mi sembra che. Ma si deve dimettere, Formigoni? Molto più delle ombre. Si deve dimettere? Il giorno e il sole splende molto. Ma si deve dimettere, Formigoni? Assolutamente no. La legislatura... Sono assolutamente certo. Primo perché non è indagato mentre altri presidenti di regione sono indagati. Secondo perché la dobbiamo smettere in una moda cattiva che c'è nel nostro paese, che i processi non si fanno nelle aule dei tribunali ma si fanno sui giornali. Per cui uno, per il fatto stesso che ha ricevuto un avviso di garanzia e Formigoni non l'ha ricevuto, di per sé è colpevole. Mi sembra no, ma nessuno la nostra dice... cultura sia tutt'altra. Io guarda, sulle dimissioni di Formigoni la penso come... Sulle dimissioni di Formigoni la penso come lei. Beh, il problema è che ci vedo, scusi, ormai stanno restando. Però tornando al gioco su Parenzo, se andiamo avanti sulla demagogia, voglio dire, con la demagogia, quanti adesso io voglio dire Napoli, ma c'è un problema di il sindaco di Napoli, però insomma certe cose mi preoccupano, no? Cioè alla fine poi ci lamentiamo se arrivano i De Magistris, guardi che la responsabilità non è della gente, la gente fa bene a farsele girare, la responsabilità è nostra. Ecco, nostra, appunto, a proposito di responsabilità, politica. Però lei che è molto vicino a Comunione e Liberazione, per usare un eufemismo, non pensa che l'immagine per la troppa vicinanza di CL con l'istituzione Regione Lombardia, l'immagine di CL in questi tempi, in questi ultimi mesi, in questi anni, sia rimasta piuttosto appannata, scalfita da queste vicende? Non ci vorrebbe una sterzata da questo punto di vista? Ma guardi, forse solo perché si conosce, chi non conosce che cos'è Comunione e Liberazione. No, d'accordo, però è vero o no che è rimasta? Comunione e Liberazione, per me, io non sono solo vicino, ma io vivo, grazie a Dio. Ma lo so. Siete cristiana in Comunione e Liberazione. Poi, la mia responsabilità di politico, di uomo, di imprenditore, in questo caso di politico, è mia, personale, e cerco di tradurre l'educazione che ricevo alla fede in Comunione e Liberazione. Ma è vero o no che l'immagine è rimasta un po'... Quando sono con Alfano, quando sono con Berlusconi, non è Comunione e Liberazione che è con Alfano e con Berlusconi, è Maurizio Lupi che si assume tutte le responsabilità. Lei è in viva voce, Lupi anche degli ha preso il viva voce del telefono, la sentiamo lontano. Sì, l'avevo messo in viva voce. Ecco, bene. Era lontano, sembrava di stare sulla barca. Infatti non riuscivo a capire più neanche io. Senta, lei darebbe alla signora Concia, dato che vicepresidente della Camera, la possibilità di fare con un conguaglio di pagare i contributi anche per la compagna, per la convivente, la signora Riccarda? Beh, ne discuteremo al prossimo ufficio. Lei è favorevole o contrario? Io sono contrario. Sono contrario non perché non si debba garantire i diritti personali di ognuno, ma semplicemente quella è una forma assicurativa che prevede che siano coperti i familiari, e la famiglia in Italia è... Siamo qui da Zanzara, 800 24 00 24, per chiamarci in diretta in collegamento da Roma, David Parenzo. È così, buonasera a lei e ai radioascoltatori. Allora, c'è una regola molto semplice quando uno è in collegamento esterno, te lo dico dopo 2 anni. Ecco, quando parla una terza persona collegata anch'essa via telefono, ti pregherei, Parenzo, proprio come consiglio spassionato, come indicazione tecnica per la comprensione di tutti della grande platea della Zanzara, ti pregherei di non intrometterti con la voce. Poi quando sei in studio con me fai quello che ti pare, per non dire il cazzo che ti pare, però ecco, quando sei in collegamento, questa è una piccola regola. Bel sito comunque ha riconsegnato, se la cosa ti fa piacere, 11 diamanti e 5 kg in lingotti d'oro. Facciamo entrare 11 diamanti e 5 kg in lingotto d'oro, capito? E c'è una bellissima canzone a riguardo, La canzone, te la ricordi, no? Oro, oro, oro. Certo. Quanto oro ti darei, oro, oro, oro, per averti così distesa pura, ma tu ci stai, perché perché oggi è meglio scegliere un diamante da investimento? Per le performance, ora se andiamo a guardare i dati storici, i diamanti da investimento hanno avuto delle performance storiche stabili, quindi è un prodotto che è sempre in crescita. Quindi signori, a questo punto Stefano, io direi... Pubblicità su Radio Padania, e come mai pubblicità su Radio Padania, eh? Vabbè, la domanda è legittima, no? Vabbè, troppa dietrologia pure noi, forse? Chissà. Una delle frasi del giorno, e beh, io direi di iniziare da oggi in poi una sorta di Borghezio Collection. Collection. Così faccio, come dire, no? Rendo la giornata più felice a Parenzo, che questo lo comunico a tutti i grandi ascoltatori della Zanzara, alla grandissima Prete della Zanzara e di TGCOM24 che ci stanno ascoltando. E Parenzo, quando è un po' depresso, quando si sente un po' giù, cosa fa? Prende l'iPad, il suo iPad bianco, si mette, si siede, ride sotto i baffi, va su YouTube e compila Borghezio, cerca Borghezio, fa click su cerca, appaiono diverse finestre, poi clicca ancora e si sente, come dire, anche con chiudendo gli occhi si sente Borghezio. Adesso forse chiudendo gli occhi è eccessivo, però insomma no, proprio bravo, proprio chiudo gli occhi per concentrarmi. L'ultima di Borghezio è questa: meglio vendere la Sicilia, la Campania, non so che altro diavolo ha detto, agli Stati Uniti, naturalmente dal mitico Klaus Davi. Se per esempio generosamente, come sembrava, si potesse fare nell'immediato dopoguerra, gli Stati Uniti d'America volessero aggiungere una stellina alla loro bandiera, Campania, prima ancora la Sicilia, la Campania molto volentieri, perché direi che siamo di fronte a zone totalmente improduttive, sarebbe un po' alleggerita quella palla al piede che finché siamo tutti assieme appesantisce il nord. E beh, allora nella Borghezio Collection che ci accompagnerà da qui almeno alla fine della settimana non possiamo dimenticare le ultime performance. Poi risaliremo nel tempo, no? Ripercorreremo nella Borghezio. Faremo un CD forse, Borghezio Collection, volume 1. Volume 1. La grande idea. La grande idea. Vai la Zanzara. Grande idea della Zanzara. La Borghezio Collection col timbro della Zanzara sopra. Si può vendere anche? Potrebbe... No, scusami, Veltroni non vendeva i film con l'unità. E noi vendiamo la Borghezio Collection, bravo, vogliamo fare la Borghezio Collection, che non è finita, perché adesso c'è avete sentito la Sicilia e la Campania vendute agli Stati Uniti, che è un'ipotesi, insomma, come dire, no? Una cosa praticabile, certo. Assolutamente praticabile. Però prendiamo l'ultima, andiamo sull'ultima che è più fresca. Più immediata. Cessione, cessione, cessione. Però combattere contro Roma, ma qualcuno dice che ormai siete uguali a quelli che combattevate. Ecco, dica a quel qualcuno che dice che noi siamo uguali di andarsela a prendere nel culo. Borghezio Collection della Zanzara risale nel tempo al 19 di ottobre e vi offre Garibaldi, che fu il primo degli stronzi. No. Sì, questa te la ricordi. È vero. Beh, il primo degli stronzi è quello che ha deciso che dobbiamo essere schiavi di Roma. È quello, beh, insomma, bisogna fare delle ricerche storiche. Il primo degli stronzi è Garibaldi, perché con la sua iniziativa improvvida ci ha messo nelle mani di Roma ladrona. Sono 150 anni che ci rompiamo i coglioni. Beh, direi che la Borghezio Collection è già pronta, cari ascoltatori della Zanzara. Ogni giorno potete sentire un volume. Questo qua era il volume, non so, il volume X, poi decideremo. 800240024, la Zanzara, in diretta anche su TGCOM24, i titoli del TG3. TG3 nel mondo di Mediaset, sentiamo. Buonasera a tutti. E adesso i titoli del TG3 di Bersani. Per il Fondo Monetario l'Italia non raggiungerà il pareggio di bilancio fino al 2017, Banca Italia troppo pessimismo, bene l'asta dei titoli spagnoli. L'IMU si potrà pagare in 2 o 3 rate, sceglierà il contribuente, ma sull'importo totale ancora incertezze, gran parte dei comuni deve ancora decidere le aliquote. Scontro PD-PDL sulle frequenze TV, emendamento per l'asta, Romani atto grave, Bersani avanti così, stasera vertice di maggioranza. Napolitano via il marcio ma senza demonizzare i partiti, il PD taglieremo le spese elettorali, al TG3 un sondaggio sulle intenzioni di voto. Lo faccio per la Lega, si è dimesso Davide Boni, presidente del Consiglio Lombardo. Formigoni, resto fino al 2015 e Belsito consegna diamanti e lingotti. È stata liberata l'italiana Maria Sandra Mariani, sequestrata nel sud dell'Algeria nel febbraio del 2011 nei miliziani di Al-Qaeda del Maghreb Islamico. Livorno commossa, saluta allo stadio il suo giovane calciatore Morosini, applausi interminabili al giro di campo, giovedì funerali a Bergamo, città natale. Titoli del TG3 800 24 00 24. Dove sei? Ci sei? Sono qui a combattere a Roma, ma mi stupisce questa notizia qui, che tu dirai no, noiosissimo, ma in verità è molto divertente. Cosa? Che il Fondo Monetario dice che non riusciremo a fare il pareggio di bilancio. Ma allora, cari amici del governo tecnico, perché continuate a passarci così? Basta! Pareggio di bilancio, via, obiettivo non raggiungibile, via! Allora fate altro, perché ci pigliano per il culo tutti, se no. Che noia! Ma come che noi? Ma è una cosa gravissima. Il Fondo Monetario dice che non avremo il pareggio di bilancio. Continuiamo a pagare tasse? Sì. E cambiassero politica economica. Ma vai a Forum Economia, no? Ma come? Vai a Forum Economia. No, no, non so se sono un ospite adatto. Non so, adesso devo un attimo. Una delle frasi del giorno, ieri sera all'Infedele, Formigoni, anche Gesù ha sbagliato. Compagnie, sentiamo, risentiamo anzi. Dai su, Formigoni. Formiga. Niente, arriva, sì, ecco. Purtroppo nelle cattive compagnie pensi che perfino Gesù ha sbagliato nello scegliere la compagnia. Uno su 12 l'ha proprio sbagliato, era Giuda, un traditore. Per questo anche il presidente Formigoni può sbagliare e persino Kad Lerner potrebbe la sbagliare. La vicenda evangelica. E avere delle cattive compagnie. Oh, sicuramente. Eugenio da Vicenza. Buonasera Eugenio. Buonasera. Vada. Volevo dire che secondo me quello che ha detto Formigoni è una bestemmia, perché intanto dimostra che il capo di Comunione e Liberazione, votato da sempre dal mondo cattolico, sì, è ignorante in materia di Vangelo. Cioè, questo è il dato, perché il Giuda, chi ha letto qualcosina... Pronto, mi sente? La sento, sì. Ma adesso non starei qui a fare l'esegesi di questa frase di Formigoni. Era strumentale un disegno, Giuda, quindi non ha scelte sbagliate, Gesù. Cioè, questo voglio dire. Ecco. E poi un'altra cosa, Parenzo diceva del fatto che c'è questa notizia adesso che il pareggio di bilancio lo raggiungiamo, ma il pareggio di bilancio è un rapporto deficit-PIL, per cui certo. Se il PIL non cresce, bene. Che non c'è. Andate a Forum Economia tutti e due. Biagio da Napoli, buonasera. No, non ci sono risolti, non ci vuole. E a tutti gli ascoltatori. Vada. Io devo esprimere due considerazioni a due temi trattati nelle ultime settimane. Uno molto riguarda, bene, diciamo, le esternazioni. Sì. Del capo Biagio, però si fermi un attimo, che lei vedo che è uno che è un chiacchierone. Andiamo a Antonio da Foggia, per cui si calmi un secondo, devo avere più tempo. Antonio da Foggia. Buonasera. Sì. Dunque, mi ricollego agli ultimi avvenimenti in zona Lega. Sì. Considerando tutte le invettive che vengono sempre spiegate ai meridionali, io vorrei chiedere agli esponenti della Lega, io non sono in grado di farlo, forse potete chiederlo voi. Come mai ha messo la Lega in mano a tre terroni? Cioè, come mai hanno messo la Lega in mano a tre terroni? Che sarebbero Belsito, originario della Calabria, poi calabrese. Sì, anche se è nato a Genova, poi? Pugliese e poi Pugliese la chi? Siciliana. Pugliese chi? Chi? Prego? Chi? La Mauro, dice la Mauro Pugliese, la Marrone origini siciliane. Sì. Guardi Antonio, per me in mano la Lega. Sì, per me queste qua sono tutte stronzate, per me ci sono solo le persone che siano nate a Belsito, originarie di Belsito, che è un paese della provincia di Cosenza, originarie di Brindisi, originarie della Sicilia, di non so dove, non me ne frega assolutamente nulla. Se questo è un problema della Lega, è un'altra delle tante contraddizioni. T4 0024 0024. La Zanzara, riprendiamo. Parenzo, aiutami tu, dove sei? Daniele Belotti, Davide Boni, Angelo Gianmario, Nicol Minetti, Franco Nicoli Cristiani, Filippo Benati, Massimo Ponzoni, Gianluca Rinaldin, Romano La Russa. Ecco a voi la regione Lombardia. Lo sai che sei un cretino, sì? Ripeto, Daniele Belotti, Davide Boni, Angelo Gianmario, Nicol Minetti, Franco Nicoli Cristiani, Filippo Penati, Massimo Ponzoni, Gianluca Rinaldini e Romano La Russa. Ecco a voi la regione con il più alto PIL d'Italia, amici. Sarebbe la lista, questa sì? enunciata da Parenzo, delle persone indagate, in alcuni casi credo ci sia anche un rinvio a giudizio, ma non lo so, non sono sì? nemmeno sicuro, sì? Per i reati più disparati, anche quelli sì? praticamente inesistenti come il caso di Romano La Russa. No, intanto abbiamo letto questi nomi. Hai fatto la tua solita lista di proscrizione, insomma, no? No, non c'è informazione. C'è una condanna? C'è una condanna? No, nulla, ma moglie. No, c'è una condanna lì? C'è una condanna lì? Nessuno, sì, ma c'è una condanna o no? C'è una condanna? No, no, bene, dire... hai detto di un sì o un no, c'è una condanna? Non c'è condanna. Non c'è condanna. Benissimo, no, ma hai chiuso, ma nessuno, nessuno dice che è un complotto. Ci dicono che non informiamo. Noi informiamo che in Lombardia ci sono 9 persone, sì. 9 persone, sì. indagate, sì. indagate, sì. nella più importante regione d'Italia. Esiste una questione morale, punto di domanda, in attesa di sapere, amici della Zanzara, in attesa di sapere se sono colpevoli o innocenti. Esiste un problema in quella regione, sì o no? Ma che ne so, ma può darsi che esista un problema in quella regione, cioè può darsi che esista un problema e può darsi anche che ci sia un'attenzione particolare della magistratura su quella regione. Questo lo puoi escludere? Questo lo puoi escludere? Che ci sia un problema su quella regione, di attenzione della magistratura su quella regione, lo puoi escludere? Sono reati talmente diversi che neanche in Calabria, neanche in Calabria, là, lì bisognerebbe chiudere la regione direttamente col chiavistello, lo sai benissimo, no? Chiudere. Sulle regioni del sud, inchieste simili non se ne vedevano da tempo, con contestazione di reati tra i più diversi. Vabbè. Sarà un problema, penso di andare avanti fino al 2000, fino al 2015 così, se gli piace così. Mirko da Firenze, 800 24 00 24. Buonasera Cruciani, non le faccio complimenti nella trasmissione perché so che le irritano. Ecco, meglio, e poi stasera sono nervoso e vado di fretta. Io manderei l'autoambulanza della Zanzara questa sera al Pirellone per prelevare l'inquilino direttamente. A chi? Al Pirellone per prelevare l'inquilino? Per prelevare l'inquilino, Cruciani. Sì, sì, va bene, io credo mandiamo questa ambulanza al Pirellone, cosa vuole che le dica? Sì, no? Sì, perché lei è di un'intelligenza tale che se si siede al tavolo o ascolta l'ascoltatore dopo 20 secondi sa cosa vuole dire. Io credo che lui, dopo i tavoli che ha fatto con tutti i suoi grandi collaboratori, doveva capire che era circondato da vari Giuda, senza pensare alla fine che ha fatto quello che ha dichiarato, la frase a cui si riferisce Formigoni. E credo comunque che una persona che viene messa alla guida di quella regione debba avere intelligenza, dopo 30 secondi, di capire chi ha davanti. Questo è mancato, quindi un passo indietro. Un passo indietro. Bene, Sara da Trento, buonasera. Poi Tina dalla provincia di Milano, Mirko da Firenze, Enzo dalla provincia di Roma, Biagio da Napoli. Ma sta per arrivare un grandissimo ospite fra poco. È un grande ospite. Mi fa godere, signor Cruciani. Allora, Sara, buonasera. Vada. Buonasera, signor Cruciani. Sì. Intanto le dico che io sono stufa di lavorare per pagare i vizi dei politici. Vabbè, però non lavoro tante ore e vorrei avere dei vizi anch'io come ce li hanno loro. Sì. Ecco, e seconda cosa, volevo dirle che... Che vizi ha lei, signora? La Lega ha dimostrato che oltre sì. ad essere razzista è anche maschilista. Che vizi ha lei, signora? Sì? Che vizi ha lei? Io? Quali vizi che si vorrebbe togliere? Non ne ho, ma ne vorrei avere. E se li potesse sì. avere, che vizi vorrebbe avere? Cioè, mi scusi il gioco di parole. Dei diamanti dal vivo, dei diamanti, dei lingotti, qualche lingotto d'oro, vizi materiali, insomma, no? Penso che al giorno d'oggi la maggior parte degli italiani non se li può permettere i vizi materiali. Si può permettere solamente i vizi spirituali. Vabbè, insomma, si toglierebbe qualche piccolo capriccio se avesse i lingotti sì. della Lega o i diamanti della Lega. Però, insomma, quella è una sorta di investimento assurdo fatto dalla Lega con i soldi pubblici. Appunto. Sì, Sì, e allora? Buonasera. Buonasera, Tina dalla provincia di Milano. Buonasera. Non ho capito dove era adesso. Tina? Tina? Cara? Signora Tina? Ma che sta facendo, signora Tina? Faccia con comodo, Tina, tanto qui è solo una diretta, eh? Signora Tina? Bene, Enzo dalla provincia di Roma, quando è comoda, può tornare con noi. Enzo, prego. Sì, pronto, buonasera. Sento solo una riflessione sul Movimento 5 Stelle. Cioè, sì, mi viene da sorridere quando politici di un certo spessore, mi riferisco a D'Alema oggi e Vendola ieri, mi sembra, cioè criticano sì. Grillo, che tra l'altro è un comico. Cioè, si arrampicano sugli specchi. Non è un comico, non dica stupidaggini, non è assolutamente un comico, è un politico a tutti gli effetti. Il Movimento 5 Stelle è un movimento politico, un partito che ne dica a tutti gli effetti. Ormai quando uno si presenta alle elezioni può anche far finta di dire sono diverso dagli altri perché non prendiamo i finanziamenti, ma è un partito politico come gli altri e prima o poi vedrà che si dovrà dotare di struttura democratica, cosa che adesso non avviene. L'unica cosa, io poi ho assistito insomma al suo comizio che ha fatto a Civitavecchia, però sì. Mi sono rimasti 3 o 4 concetti, poi tra l'altro ero andato lì per vedere più il comico che il programma politico. Insomma, ma succede a molti. Però mi sono piaciuti 2 o 3 aspetti insomma di questo sì. Movimento, tipo? No? Per esempio che i consiglieri regionali, quelli piemontesi se non sbaglio, si sono autolimitati lo stipendio a 2.500 sì. euro. Io questa la trovo una stupidaggine colossale comunque. Insomma. Però è un segnale. Cioè, colossale, li usassero per fare politica, non per... li usassero per attività politica, cioè per fare politica sul territorio, non per lasciarli lì i soldi, li usassero per fare attività politica. Attività politica però un segnale, cioè, bisogna pure darlo, cioè noi italiani generici che andiamo a votare, vabbè. Cioè un segnale tangibile. Vabbè, insomma, per carità, lei apprezza questa cosa, io sono contrario, ma va bene così. Poi lo dico anche perché poi sono stato sempre orientato insomma a votare centrodestra, cioè questa volta mi trovo, non so, invogliato a dare fiducia a questo movimento, non lo so nemmeno io perché. Però... ma guardi che non è solo lei, ha visto infatti, i sondaggi, sì, ha visto i sondaggi, 7% eccetera eccetera. E infatti appunto io mi meraviglio come questi altri politici, no, invece di criticarlo, forse dovrebbero dire ma perché è diventato così efficace Grillo e il suo movimento verso gli italiani? Forse su quello si dovrebbero interrogare. A me se Bersani della situazione, Fini sì. o qualsiasi altra persona andasse in televisione e mi dicesse guardate, tutti i nostri consiglieri si autolimiteranno lo stipendio. Guardi, oppure... autolimitarsi lo stipendio come fa il movimento di Grillo è un'emerita stronzata, lo posso dire? Cosa significa prendere i soldi, hai lo stipendio da consigliere regionale, lo prendi per fare attività politica, pensi che sia eccessivo? Presenti dei disegni di legge, come avranno sicuramente fatto, per ridurre gli emolumenti dei consiglieri regionali. Non prendere i soldi, lasciarli lì è anche una cosa, come dire, autolesionistica da un certo punto di vista. Li usassero per fare la loro legittima attività politica, non è che li lasciano lì e non li ritirano. Poi non so nemmeno se effettivamente. Ma infatti, nel PD, ad esempio, sì. I deputati o i senatori o anche i consiglieri regionali danno in genere il 40 o a chi il 50%. No, ma che 40%? Quando mai il 25, il 20 in alcuni casi? E anche il 30. Nel vecchio PC davano il 50%. Ma non lo so, qui abbiamo un esponente che è stato nel Partito Comunista e che a cui lo possiamo chiedere, con noi il mitico Ugo Sposetti, buonasera. Beh, applausi. Buonasera. Come sta, senatore? Io sto bene. Dove si trova in questo momento? A Roma, a casa sua? In ufficio a Roma. Esponente del Partito Democratico, è stato nel Partito Comunista, eccetera, eccetera. Uno dei più grandi sostenitori, Parenzo, tu lo sai, del Come finanziamento no? pubblico alla politica. Allora, sì, però io prima di affrontare questo tema con Sposetti, volevo subito chiedere una cosa. Ma mi dà una sua definizione? Lei che insomma ha attraversato, no, la Prima Repubblica, prima della Prima Repubblica, la Seconda, sì, questo l'Ottocento, la rivoluzione, tutto. La spedizione dei Mille. Beh, adesso non è che c'ha 85. Luxemburg. Non è che c'ha 80 anni, ce n'ha 65, quanti ce n'ha? Quanti ce n'ha? 65. Siete proprio cattivi. Quanti ce n'ha? 65. 65. Non è da buttare. La prima legislatura quando l'ha fatta, Sposetti? Nell'87. Nell'80 lei. Poi sono stato fuori, Siamo quelli del dell'86. Venditti era quello. Era Venditti, sì, l'86. Sì. 87, nel 87 al Senato avevo solo 40 anni compiuti da 2 mesi, quindi 40 anni? Ma è entrato pure tardi in realtà. Al Senato si entra a 40 anni, giovanotti, studiate. No, ma lo so, ma voglio dire. Si entrava, credo, no? Forse no, c'è stata una modifica. Si entra ancora, non c'è stata una modifica, vogliono modificare questa cosa, no? Vabbè. Senta, Sposetti, ma mi dia una sua definizione di Beppe Grillo, perché ieri D'Alema ha detto un mix tra Bossi e il Gabibbo. Ecco, lei mi dia una sua, quella di Sposetti, una cosa sferzante alla Sposetti. Ma guardi, io ho sempre sempre seguito quando faceva quelle interessanti trasmissioni in televisione all'inizio, 25 anni fa, 30 anni fa, sì. So, quando era ragazzo. Sì. E adesso gli è presa pure a lui la voglia di fare il comico, fare politico comico, il comico politico, quindi lasciamolo fare. Passerà pure lui, Lei dice, Sì, sì, passa pure lui. Lei dice. Sì, sì, sì, sì, sì. Ma si presenta alle elezioni secondo lei? Sì. Alle politiche? Ah, lui farà quello che vuole, non lo so, farà. Però non vedo perché ci dobbiamo preoccupare più di tanto. Beh, i sondaggi, ha visto i sondaggi. I sondaggi lasciamoli fare, poi quando ci sono le elezioni poi è un'altra cosa, è sempre più intelligente dei sondaggisti. Cioè, ma chi vota Grillo che cos'è? Uno sprovveduto secondo lei? No, assolutamente. Assolutamente, perché lui raccoglie un sentimento popolare molto diffuso per responsabilità delle vicende che sono accadute negli ultimi decenni, anche per responsabilità dei partiti, anche per problemi che ci sono avuti, e soprattutto per un calo della tensione civile, sì. Perché noi abbiamo pensato che la società civile fosse più sana della politica, e la politica è figlia della società civile, la società civile è diventata sempre più cinica, sì. e noi ecco come siamo combinati. Però ecco, naturalmente io non do le responsabilità a nessuno, perché i gruppi dirigenti dei partiti hanno le loro responsabilità, se le devono prendere, e oggi, come mi hanno insegnato nel partito comunista da ragazzo, quando ho cominciato a frequentare con la mia 500 le sezioni, quando succede qualcosa, e qualcosa è una candidatura sbagliata, perdi le elezioni, è sempre colpa dei dirigenti. No, bisogna saper dare un messaggio. Di che? Al partito e al popolo. E oggi i partiti devono saper dare un messaggio al popolo. Ecco, appunto, ma secondo lei Grillo cosa è diventato? Lei lo apprezzavo come comico, adesso che è diventato? Io l'ho detto, sicuramente è un politico comico, un comico politico, adesso questa è una definizione che io non saprei dare. Ma li ascolta ogni tanto? Qualche comizio lo ascolta? No. No, sono tutte cose no. Populiste. Populista. No, se io sono sempre che al populismo e all'antipolitica bisogna rispondere a muso duro e non lisciare il pelo. E dunque come risponde a muso duro? In che modo? A muso duro dando delle risposte. Bersani, Casini e Alfano hanno presentato una proposta, stasera abbiamo votato, si fa in legislativa, spero che questa... Ma lei dice su che cosa? Sulla trasparenza dei bilanci. Ah, vabbè, sì, certo. Queste sono la prima risposta. No, al popolo si dice, guardate che adesso queste cose le facciamo controllare da persone terze, società di revisioni, corte dei conti, commissione, authority. Adesso ma lei li taglierebbe i rimborsi, sì o no? No. No, nemmeno un euro. Perché sono già tagliati. Nemmeno un euro. Guardi, sono tagliati del 20-30%, non mi ricordo quanto. Da un euro siamo passati a 0,70, quindi a 70 centesimi. Quindi, comunque non si devono più tagliare i rimborsi. Anzi, lei li voleva pure aumentare, sposè. Un anno fa lei li voleva persino aumentare dandoli alle fondazioni. No, io ho presentato una proposta molto semplice, che basta leggerla, che dice. Significava aumentare i soldi ai partiti. Questa è stata... No, allora la proposta va vista tutta, non è che va visto solo un numerino. Però è vero. Questo era vero, lei comunque all'interno di questa proposta c'era un aumento dei soldi che andavano alle fondazioni. Sono ancora convinto che noi dovremmo utilizzare il sistema tedesco, ma lei se l'è chiesto perché la Germania c'ha un PIL più alto del nostro, c'ha il minor numero di presidenti di consiglio, di cancellieri, e perché? Non c'è stato scioglimento della cosa. Quando c'è la crisi i partiti sono talmente forti e solidi anche nei confronti della loro base elettorale da fare le alleanze e nessuno si scatta. Vabbè, quello è il sistema. Così, è il sistema. Prego? È il sistema che... il sistema, perché loro hanno un sistema, una democrazia che ha un sistema elettorale solido, che produce quel Parlamento e ha quegli effetti. E poi perché i partiti sono organizzati, sono finanziati e hanno risorse e una classe dirigente più qualificata. Benissimo. Quando c'è un Presidente della Repubblica aiutare per avere un mutuo agevolato, l'hanno i 100 milioni di luglio, che dobbiamo fare con questi 100? I 100 milioni che devono essere erogati a luglio, che bisogna fare? Prenderseli? Io penso che ai partiti è una cosa che non, diciamo come tesoriere di DS non mi riguarda più. D'accordo. prenderli. Ma i partiti li devono prendere perché si devono attrezzare per la campagna elettorale del 2013. Vanno erogati senza nessun problema, proprio tranquillamente. Altrimenti no, no, calma. No, lei l'ha vanno detto, erogati secondo le regole che il Parlamento stabilirà nei prossimi 15 ho anni. Ho capito, lei dice i soldi devono essere presi dai partiti, non ci deve essere nessun tipo di, come dire, no? Di decurtazione, non ci deve essere nessun tipo di correzione su quello che è già deciso. Ma se io le dicessi che le decurtiamo dal 10%, lei mi direbbe no, dal 20%. Se io dico il 20%, lei mi dice no, ma lei deve dire la sua opinione, la sua opinione. La mia opinione gliel'ho già detto. Devono restare così. Destinati no, siamo già a 70, eh? Sì, ma quello verrà deciso dopo, Come deciso dopo? No, lì la decurtazione, la decurtazione. La decurtazione avviene dalle prossime elezioni. Esatto, dalle prossime elezioni. Questi qua siamo a 90, non più. Però voglio dire, questi che devono essere dati adesso devono rimanere come è stato deciso, perché i partiti si sono regolati in base a questo, questo si può dire, no? Se lei chiede il mio pensiero, le dico questo. E infatti. Che cosa deciderà il mio partito e il mio gruppo? Vabbè, quella è un'altra cosa. Perché sono un disciplinato. Da vecchio comunista come lei. Da vecchio comunista, beh, non è mica scandalo. No, chi dice niente? Per carità, mica la voglio far arrestare per questo. No. Senta, ma destinarli a fini sociali, come dicono alcuni, mi dica che è una stupidaggine. Io so che lei dice, lei lo pensa, è una stupidaggine. Sì, considero una stupidaggine, certo. E anch'io, devo dire la verità. Insomma, da questo punto di vista sono d'accordo con lei. A fine sociale, ma a chi chi lo decide, chi, poi? A chi li dà? A quelli della protezione civile? Ma qual è in Italia il comparto che me lo dica. No, a me lo dici, io sono d'accordo allora con lei. A fine sociale a chi? Se lei mi dice a chi, se lei mi dice, li do a Parenzo, li do a Cruciani, sì. Guardi, io non sono in uno stato di c'è un sacco di gente del suo partito che dice destiniamoli a fini sociali, pure nel suo partito, dirigenti europarlamentari che dicono beh, destiniamoli. Ma un'associazione di disabili? No. No, io l'associazione di disabili io la posso aiutare per conto mio e non vedo perché lo devo dire. Giusto. Certo. Mi segue? Sì, come no, certo. Perché ognuno di noi fa e risponde alla propria coscienza, risponde al suo cervello e alla cosa. Quindi lasciamo perdere queste stupidaggini. Quelle risorse sono dei partiti. Ai partiti e le danno ai partiti. Lei sa che i democratici di sinistra durante la crisi in Argentina hanno raccolto fondi e hanno investito risorse per i bambini, per i niños argentini? Lei lo sa che per 3 anni di tesseramento noi abbiamo destinato 600.000 euro ai democratici di sinistra per costruire una struttura sanitaria del Burkina Faso? Ma non è che abbiamo fatto i manifesti per quella cosa, perché era un intervento di solidarietà. Certo, i nostri lo sanno, abbiamo fatto una bella cerimonia. Fassino però qui i partiti incassano. Ha capito di che sto parlando. Ho capito. Come l'abbiamo già fatte. E poi guardi che se un partito funziona bene, quello è già un intervento sociale. Cioè dare i soldi a partiti è un intervento sociale, dice lei. Perché è un intervento sociale? Sto vicino ai lavoratori, difendo la parte più debole. Ho capito, che però qui sono rimborsi elettorali in cui i partiti spendono uno e incassano 4,5 secondo alcune stime. È un'ipocrisia questa dei rimborsi elettorali, lo dico esplicitamente. Allora, questa cosa, vede che lei non ha letto il mio testo, se ha pensato alla mia proposta. È un anno fa. È ottobre del 2010, ma i giornali, siccome ha cominciato... Ma non è, lasciamo perdere il suo testo. Allora io lo dico, il mio testo... No, ma lasci perdere il suo testo. Risolve questo problema, perché lo so pure io che è un equivoco. È un'ipocrisia, mi dica lei, è un'ipocrisia. Abbiamo fregato. E come no? Calma con le avete parole. Aggirato calma con le parole. Calma con le parole. Mi piace Sposetti noi è tosto, combattere avevamo Leone. Bisogno di soldi. Trovare un sistema per finanziare la politica secondo quanto stabilisce l'articolo 49 della Costituzione. Altrimenti la democrazia che fine faceva? Allora, io lo spiego. 10 anni fa la democrazia italiana era una democrazia sudamericana, perché c'era un... Interessantissimo, c'è la pubblicità, torniamo subito. Ugo Sposetti, una leggenda, anche solo quando parla è una leggenda. Cioè sentire questa voce piena, rude, comunista, a tra poco. Bene, eccoci qua, sono le 20 in punto, caro Parenzo in collegamento da Roma, David Parenzo in collegamento sempre da Roma dal suo ufficio, il senatore Ugo Sposetti, Partito Democratico, ex tanti... che lavoro è? I tesorieri sono messi in mezzo in questi ultimi tempi in maniera pazzesca, visto il caso di Belsito, posso paragonare Sposetti a Belsito? Beh, lei è una persona simpatica, però questa se la può pure risparmiare. se le faccio un paragone con Belsito, come si sente lei? Che, insomma, più o meno... fisicamente non ci assomigliamo, quindi mi basta questo. Andiamo avanti. Beh, una cosa in comune ce l'avete, siete cioè lui era per un periodo siete stati entrambi tesorieri, ecco, questo non si può negare. No, certo. Secondo lei nella Lega come li sceglievano i tesorieri? Ma guardi, io ho lavorato con Balocchi e con lui e Crimi, abbiamo scritto la norma che poi quella che tanto voi criticate, la cosa, ho lavorato molto bene sia con lui che con Crimi. Quindi come li scelgono sono problemi loro. Non partecipo a questa discussione. A questo non c'è dubbio. Ma insomma, lei dice che questa legge che attribuisce, secondo me, un sacco di soldi troppi ai partiti, e secondo lei no, ha salvato a un certo punto la democrazia in Italia dei partiti. Ma glielo spiego, mi dà 30 secondi. Come no, certo. Allora, nel 2001 noi avevamo una situazione di questo genere. C'erano ancora le lire. Forza Italia, un partito di 6 anni e mezzo, aveva 380 miliardi di debito. Prodotti da 3 campagne elettorali, 1999, 2000 e 2001, ricordate, e anche i radioascoltatori ricorderanno la nave azzurra, una cosa dispendiosissima, è 2001. Queste campagne elettorali fanno ottenere dei successi al centrodestra, quindi a Forza Italia, e poi a quelli che io chiamo i succhiarode, Alleanza Nazionale e l'UDC. Ma come i succhiarode? Stavano lì e la Lega, perché loro non spendono soldi ma ottengono risultato, perché la campagna elettorale gliela fa quel signore col partito di proprietà, che però aveva fatto indebitare quel poveretto di Grimi, e che era il tesoriere, però aveva dato le garanzie. E poi subito dopo l'elezione del 2001 diventa pure presidente del Consiglio, quindi una situazione è più proprietario delle televisioni. Dall'altra parte c'era una Margherita appena nata che non aveva nessun legame con i precedenti, quindi né debiti né personale, cose, ma solo rimborsi elettorali. E poi voi pieni di debiti. E noi pieni di debiti. Questa era una democrazia sudamericana, tant'è che anche gli altri riconoscono la necessità di riequilibrare e di avere anche autonomia. D'accordo, però Sposetti, mi scusi un attimo, però non è che l'unica soluzione possibile era dare un sacco di soldi ai partiti, potevate, come dire, suicidarci. Come suicidarci? Noi avevamo di fronte solo il suicidio. Come il suicidio? No. Suicidio. Cioè? Suicidio, quando uno ha 1130 miliardi di debiti. Fallisce 200... come in tutte le cose, le aziende falliscono, le aziende falliscono. Appunto, potevano fallire, noi abbiamo fallito perché abbiamo incominciato a pagare i debiti. 200 persone che dovevano prendere lo stipendio da 3 mesi. Si licenziano. Prego? Sì, possono licenziare le persone, succede nelle aziende. Le aziende quando vanno male... veda i suoi... perché lei dà voce ai radioascoltatori e gli dica a quelli che telefonano, tu stai male, adesso ti licenzio. Dica no, ma così. I dipendenti dei i partiti dovranno dimagrire, ma o no? Ma che ragionamenti mi sta facendo? Ma come no? Scusi. Ma che cosa sta dicendo? Comunque ritorniamo alla democrazia, perché vedo che amico dei padroni. Ma che amico dei padroni? Adesso non dica così. Certo, lei dice non c'hai i soldi, licenza. Ma se un partito va male, può darsi che ha troppi dipendenti, no? Può darsi che ha troppi dipendenti, Sposetti. Può darsi che abbia troppi dipendenti e questi dipendenti devono essere ridotti. Andiamo avanti. Sfuggita la frizione, quindi no, ma non è sfuggita la frizione. I lavoratori non si licenziano. Mai. No, si cerca di risolvere il problema, no? Ma non facendoli pagare a noi, però. Vede che la sua antipolitica, sua scusi, però parliamo di soldi pubblici, però in questo caso. Sì, infatti quello punto. Perché dobbiamo mantenere dei dipendenti utilissimi dei partiti ma con soldi pubblici? Faccio una bella cura Marchionne. Lei è il Marchionne dei DS, è stato detto, il Marchionne dei DS. Faccio una bella cura dimagrante. Questo no? Volevo dire, Sposetti, ma è Parenzo che parla per me in questo caso, però io questo volevo... scusa. Ma è questo. Si sente un po' il Marchionne lei? No. Beh, comunque abbiamo salvato la democrazia dalla dissoluzione dei partiti. Dopo quella legge, 2002, vada a vedere le consultazioni elettorali. Il centrosinistra ha vinto sempre fino al 2007. Bene, 2001, ah, dopo il 2001, lei dice, sì. Dopo il 2002. Questo che vuol dire, scusi? Anche i soldi aiutano a fare la battaglia, cioè, politica. Con i soldi pubblici la sinistra ha più possibilità. Ma guarda, da tutte le parti sono soldi pubblici. Allora le spiego, perché sì. Lei, cosa? Voi, alcuni di voi, sì. Ho sentito anche altre trasmissioni in cui lei ci arriva, parlate, facciamo come l'America, facciamo come in Inghilterra. In Inghilterra il sì. Labour Party è finanziato dai sindacati, sì. E adesso discutono sulla trasparenza del passaggio di queste risorse dai sindacati. I conservatori sono finanziati dalla City, dai grandi sì. imprenditori, e loro sono arrivati adesso alla commissione che ha concluso il lavoro, sì. E ha detto no, bisogna mettere il finanziamento della politica. Sì. Già Mark Wolfes, il Financial Times, aveva scritto a gennaio, guardate che il rapporto tra finanza e politica è talmente deteriorato che bisogna mettere a riparo la politica. Questo scrive lasciamo perdere il Financial Times, sposetti lei. Vabbè, allora le dico, in America voi parlate delle lobby, ma fare come in America, in Italia non è possibile. Spiego in due battute, sì. Perché gli imprenditori italiani, sì. i lobbisti italiani, che fanno? Hanno risolto un problema in un altro, alla fonte. E come? Perché hanno comprato le televisioni, sì. i giornali, le radio private e... Anche questa? Certo, anche quella. No, l'hanno fondata in questo caso. E ottengono risorse pubbliche. Sì. Risorse pubbliche senza bisogno di fare lobby, e condizionano, dice. Il Parlamento, il governo, i parlamentari singoli, naturalmente, le giunte regionali, perché devono finanziare le campagne? Senta, un suo collega di partito, Murdoch, lasciamo perdere questa discussione. Perché le dà fastidio, no. la proprietà della sua radio, sì. per il giornale ha sempre preso soldi pubblici. Non dica così, con i soldi pubblici, perché sono soldi pubblici, lei sa benissimo che sono la questione della posta, della carta, certo. Scusa, ma non è che non si sopravvive, vengono dai soldi, sì, che però, paga Cruciani, Parenzo, però, Sposetti, scusi, eh? Sposetti, certo, quella sono i soldi dei contribuenti, mettetevelo in testa. Sì, Sposetti, lei la pensa come Grillo su questo, però glielo dico subito, cioè che dice che sono tutti uguali da questo punto di vista e prendono tutti i soldi pubblici, se lei mi fa questo ragionamento. La pensa esattamente come Grillo. Sono tutti uguali. Io le dico che rispetto al sistema americano del finanziamento delle campagne, certo. elettorali dei partiti, in Italia quelli che dovrebbero finanziare i partiti e i candidati l'hanno già risolto alla fonte, perché hanno fatto un'altra scelta. Questo può darsi, però scusi un attimo, Sposetti, torniamo. Una volta deve ammettere che il mio ragionamento ha un senso. Detto che non ha senso questo ragionamento qua. Quando lei invece dice che il Sole 24 Ore e altri giornali, Corriere della Sera, ricevono finanziamenti pubblici, non può limitarsi a dire questo. Sono giornali che sopravviverebbero tranquillamente senza questa minima parte, che peraltro è stata ridotta negli anni, di finanziamento, pubblico. Punto. Allora, io non minimissima parte che incide pochissimo. Allora guardi, non voglio continuare su questo. No, infatti non continuiamo. Perché lei è un lavoratore della comunicazione, quindi essendo un lavoratore lo rispetto e sono Andiamo avanti. Andiamo avanti. Senta, Renzi dice invece che questi soldi, che è un suo compagno di partito, è un suo collega di partito o no? È nel PD, mi sembra, no? Ancora. Sì, dice che siamo iscritti allo stesso partito, ma io non so. E invece lei che pensa? Scusi. No, non lo so, lui fa tutte queste cose contro, cioè è iscritto in un partito del quale tutti i giorni dice il male possibile. Potrebbe scegliere un altro partito. Cioè, se ne va è meglio, dice lei, no? No, uno che tutti i giorni, quando salta, si guarda allo specchio, non si fa la barba perché mi pare che non abbia barba, sì. che gli dà problemi. E l'unica cosa che pensa, dice oggi... Come insulto il PD, il suo segretario, i suoi dirigenti? Insulta tutti. È il suo problema. Fa un mestiere interessante. Cioè lui, non avendo tempo da dedicare per farsi la barba, allora pensa e poi comincia a insultare. Questo è un po'. Togliendo la cosa insultare, che magari è un'altra cosa, però effettivamente. Come insulta? Che cosa fai? No, ma adesso le sto andando incontro, e mi venire addosso sempre, però, Sposetti. Ma io ho capito che lei la pensa come te. È vero che si alza la mattina e c'è ogni giorno una dichiarazione contro il PD, su questo, sì, su questo non c'è dubbio. Dunque è meglio se se ne va dal PD, diciamo la verità. No, no, no, questo non lo dico no. perché io ho fatto tanti anni per conquistare nuovi iscritti, nuovi elettori, figuriamoci. Io dico che ci deve stare, però ci si sta rispettando delle regole. Cioè il segretario dovrebbe un po' bacchettarlo, insomma, da questo punto di vista. Invece... Ma no, Bersani è bravo, poi una persona che sopporta, che porta la croce, lì è come fa le... Quante sono? 12, no? le stazioni della passione, sì. Lui ne fa 24. Cioè, sopporta pure Renzi. Adesso anche Giorgio Gori c'è con Renzi. Prego? C'è Giorgio Gori con Renzi, no? Consulente, sai chi è Giorgio Gori, sì? Sì, sì. Sì, perché che devo fare? No, le fa venire in mente qualcosa? C'è un caso? No, no, non è un caso. Cioè, non succede niente per caso nella vita, ho imparato. No, Arrivato a 65 anni, no, sì, sì. Ma che c'ha di male il signor Gori? No, e lei mi ha detto che c'è il signor Gori, dico sì, c'è, se qualcuno l'avrà mandato, qualcuno lo paga. Qualcuno l'ha mandato, dice lei. No. Mandato qualcuno da Berlusconi. Lo paga, se no uno che fa? È ricco di suo? Il signor Gori è ricco di suo, però, effettivamente. È ricco tanto di suo? Sì. Ma sì. Guardi che io i ricchi che ho incontrato, sì. È difficile che ti offrono un caffè. Questo è un altro discorso. Ma chi l'ha mandato Gori da Renzi, secondo lei? Non lo so, questa è l'indagine che dovete fare, voi siete giornalisti bravi, fatela l'indagine. Comunque Renzi dice che il finanziamento va abolito, insomma, questo dice in sostanza, comunque molto... Ho letto pure dal giornale che lui ha preso soldi da un partito, ho letto dai giornali. Da Lusi, dice lei? Non lo so, ho letto così dai giornali. Beh, ma lui, i giornali non è che dicono sempre la verità, Ah no, una volta hanno detto cazzate. Lui dice di non aver mai preso niente. Lui, vabbè. No, io ho letto quello che scrivono i suoi colleghi. Una cosa. In questo caso hanno scritto cose non. No, secondo Renzi no. Secondo Renzi no. Secondo lui? Sì, secondo lui no. Perché secondo lui invece l'ha preso i soldi da Lusi? Renzi? Ma hanno detto i giornali, quindi. Non è che sia i giornali, non è la Bibbia, cioè che anche sulla Bibbia si potrebbe discutere, tra l'altro, per cui. Vabbè, allora che devo fare io? Giornali li posso leggere. Voglio dire, Renzi vuole abolirli questi finanziamenti, cioè siete su posizioni diametralmente opposte. Cioè, Ma guardi, su questa cosa di quello che pensa Renzi, io ne faccio a meno. Non gliene può fregare di meno. A Roma si dice così, però insomma dico che ne faccio a meno. È un po' più delicato lei, diciamo. Insomma. È numero uno. Cerco di mantenere uno stile, una dignità. Pubblicità. Intanto mi arriva la notizia che il senatore Bodega, che lei conosce, un suo collega, ha lasciato il gruppo del Senato e si è iscritto al gruppo misto in polemica per l'espulsione di Rosi Mauro. Dunque una sorta di bossiano Rosi Mauriano di ferro, non so come definirlo, forse un po' azzardata come cosa. Bodega. Non lo so, veda un po' lei. Senatore, che devo fare? Lorenzo, no, nulla, un attimo, aspetti 2 secondi, abbiamo la pubblicità. Poi torniamo nel suo studio, lo studio privato di Ugo Sposetti. Che cosa ha nel suo studio Sposetti? Che c'ha qualche quadro che ricorda il vecchio Partito Comunista? Qualcosa c'è? No. Lei mi viene a trovare, glielo faccio vedere e ci può fare una trasmissione. Che c'è? Una roba fantastica deve essere. Ci sono, adesso se mi giro ci sono 2 quadri di Guttuso. Sappiamo Guttuso. Una prova d'autore di Guttuso fatta sicuramente durante il sequestro Moro. Sì. Quindi c'è un bel quadro di Berlinguer, un ritratto di Berlinguer. Sì. C'è una bella stampa di Bariviera che mi hanno regalato la segreteria quando ero al Ministero delle Finanze, con una bella dedica. C'ho un po' di vignette di Bobbo interessanti, un bel manifesto di Bruno Trentin, una delle persone eccezionali. Bruno Trentin, un salto indietro nel tempo il suo studio, una roba storica quasi. Guttuso, quanto vale quello che c'ha di Guttuso? Non lo so, però siccome è ben protetto rimane qua. È importante che sia ben protetto, perché sa. Sì, stia tranquillo, è ben protetto. Bene, 800 24 00 24, la Zanzara, conclusione con il mitico ormai Ugo Sposetti, senatore del Partito Democratico, che ci ha illustrato prima il suo studio. Parenzo, dove sei? Sì, io voglio solo capire questo dal mitico Sposetti, cioè quanti soldi ha gestito Sposetti, quanti soldi ci sono nei forzieri dei DS? Mamma mia, è una domanda assurda. Perché Parenzo Sposetti fa queste domande così complicate? Quanti soldi ci sono nei forzieri dei DS? Ci sono ancora molti debiti, purtroppo. Se mi volete aiutare, vi ospito. Quanti debiti ha? Superiore a 100 milioni ancora. 100 milioni di euro con le banche di debiti dei vecchi DS? Hai capito? Cioè, ma che ci facevate con tutti quei soldi? Questo è il punto. No, con tutti quei soldi, io scusi. Ho cominciato a lavorare con 1130 miliardi di vecchie lire di debito, 580 milioni, da sì. 580 sono sceso a 100, beh, insomma, adesso piano piano aspetteranno, poi lunga vita ai debitori, no? Si dice così, no? Certo. Cioè, se no non le prendono. Ma questi 100 milioni con le banche in che modo si estinguono? Piano piano adesso. Con adesso, che? Una parte l'hanno presi, una parte vedremo. Col finanziamento pubblico anche? No, ormai io non c'ho più nulla, guardi, sono solo io e tutti sti quadri attaccati. C'è un barattolo di Nutella che no, mi hanno mandato per omaggio quando ho fatto la battuta, perché questi simpatici amici che venivano da un'altra esperienza, un'altra storia, hanno cominciato a dire bisogna cambiare il nome alle feste dell'unità, cosa che poi hanno cercato di fare, ma insomma tutti le continuano a chiamare feste dell'unità, e io feci la battuta, ma voi la cambiereste il nome alla Nutella, e loro hanno mandato questo barattolo di omaggio che tengo qui. Poi c'è una bella cosa, perché lei, voi due non eravate ancora nati, era il primo marzo del 46 per la vittoria della democrazia, era prestito a premi lanciato dal Partito Comunista Italiano per l'elezione alla Costituente, la somma sottoscritta in questo caso era lire 1000. L'importo di queste cartelle sarà rimborsato alla pari senza interessi entro il 31 dicembre del 49 al sottoscrittore e ai suoi eredi legittimi o testamentari. Secondo me non gliel'hanno mai rimborsato. No, però, questo non c'è dubbio, su questo non c'è dubbio. Come i soldi, come c'è addirittura chi propone che questi soldi adesso di luglio siano lasciati lì, cioè proprio dobbiamo rinunciare, anche gente del suo partito, ma sono pazzi, che sono questi qua? Autolesionisti, cosa sono? Sono ragazzi e ragazzi che non sanno come vive un partito, come si fa la politica. Ma i partiti chiuderebbero, perché hanno comunque, si sono indebitati pensando di poter contare su quei soldi, dunque i partiti chiuderebbero. Magari... non tutti si sono indebitati, alcuni ce li hanno davvero, che grazie a quella norma di 10 anni fa alcuni soldi ce li hanno, tant'è che avete visto che cosa poi ci hanno fatto. Scusi un attimo, ma questi 100 milioni che restano, lei mi ha detto dei DS eccetera, ma come li ripagate? Come vengono ripagati alle banche? Beh, una parte adesso l'hanno presi, una parte hanno pignorato un po' di immobili che ancora abbiamo, e pazienza, e discuteremo. Che cosa fa un debitore? O si suicida, cosa io non ho nessuna intenzione di farlo, e discute e cerca di pagare. Vabbè, tanto ma mica è colpa sua, mica è stata colpa sua, Sposetti, questi 100 milioni. Vabbè, siccome adesso la responsabilità è la mia, però, no? Non è che posso dire. Ma lei si ricandida al Senato, in Parlamento, ci torna nella prossima legislatura oppure chiude qua dopo tanti anni? Gli va ancora di... questo non ci ho mai pensato, non penso. No, Non lo so se vorranno. Non lo esclude, non lo esclude però. Ma non è una cosa che non ci ho mai pensato a queste cose. Che ne so, una a 65 anni potrebbe dire, l'anno prossimo 66, basta, cioè a 66 anni lascio a più giovani, no? O no? Sì, come no, certo. Però i più giovani non è detto che siano più... Lascio a Renzi, ad esempio. No, lascia Renzi, mi sembra. Renzi. Non mi sembra. Ma lui se lo conquisterà, non si preoccupi. Lei dice, eh? Non c'è bisogno che glielo lascio io. Che futuro ha secondo lei, signor Renzi? Ma io gli auguro tutto quello di fare, tutto quello che lui desidera fare. Fa un po' di pasticci. Sì. Se fossi lui io mi dedicherei di più a quella città, a fare il sindaco, che è il mestiere più bello del mondo. A Firenze, dice lei, eh? Sì, beh sì, eh. Può fare il ministro degli esteri della cultura italiana invece di rompere tutte le mattine a PD, no? Di rompere le balle, i coglioni, lo dico anche chiaramente, tanto qui si può parlare anche in questo modo, lui se si dedicasse alla città, farsi amare di più dai fiorentini e propagandare la cultura italiana, perché poi Firenze ha tutti i titoli per rappresentare l'Italia, non per rappresentare Firenze, sarebbe meglio, insomma sarebbe meglio. Sì, abbiamo avuto dei precedenti a Firenze dove si interessavano, veramente erano ambasciatori del nostro paese. No? Certo. Senta, un'ultima cosa, ma il più ipocrita su questa questione dei soldi, da quello che legge in questi giorni, dove c'è questa grande discussione sul rimborso, i 100 milioni... È una bella gara. È una bella gara, cioè il primo chi è? È una bella gara. Però il primo me lo deve dire, il più ipocrita. Di Pietro, mi dica la verità, Di Pietro che fa il referendum, raccolta dei soldi. No, una grande frequentazione né simpatia per l'uomo. No, eh? No. Fosse per lei, ecco, che definizione dà del signor Di Pietro? Guardi, non me lo sono mai posto perché è una cosa che... A pelle, passo però. E... non guardo, guardi. A pelle proprio, ma non è di sinistra, no, per carità. No, quell'uomo è un uomo di destra, ce l'ha dentro fino a... Fino al midollo, proprio. Sì, sì, midollo. Una roba di destra. Oh, per tutto rispetto per le persone, certo, di destra. Ho il traffico, torno tra un attimo, così chiudiamo. È che io starei con Sposetti ore, cioè, è sposato lei, Sposetti? È sposato Sposetti? Sì. C'ho anche una figlia. E anche una figlia, mi perdonerà se sua moglie, se rivolgo una cosa, un moto di affetto nei suoi confronti. Siamo quasi, tra l'altro, dalla stessa regione, quasi. Ma comunque. Eccoci, allora chiudiamo per davvero, stavolta così lo lasciamo, Parenzo, se l'abbiamo sequestrato qui. Sequestrato da mezz'ora. Non so come faccio a dormire sonni tranquilli con tutti quei debiti. Io se ho il conto in rosso non dormo per una settimana. E vabbè, 100 milioni, ma cioè, non è che sono rispetto a 580. Ma quante fondazioni, di quante fondazioni dispone lei? No, io di nessuna, ne dispongono i legittimi dirigenti, sì, no, lei... in giro per l'Italia. Sì, sono una sessantina. 60 fondazioni? Caspita. Potere. E i soldi a queste fondazioni da chi arrivano? No, da nessuno, dalle loro attività, dagli affitti che sono sempre di meno, insomma sono sempre in difficoltà da riscuotere, perché in molti ci sono i circoli, le attività del PD. Ho capito, all'inizio qualche soldo sarà arrivato dai soldi che aveva, no? Ma guardi, sono arrivati fondamentalmente gli immobili e molti documenti e molta storia, che quella è la cosa. E anche quattrini, però, anche quattrini, diciamo la verità, una minima parte, no, di soldi. No, i quattrini no, perché erano tutti in bolletta. 60 fondazioni ci sono. Sì, sì, no. Perché tanta roba, eh. No, tante, perché? Tanta roba. Legittima attività politica, no? Legittima, perché quella è stata costruita da generazioni dai dirigenti, di sì. Sacrifici, feste dell'unità, sottoscrizioni, raccolta di fondi, alle quali raccolta di fondi, alla quale raccolta hanno partecipato i cittadini di quelle località, sì. Stia tranquillo, erano solo comuni. Senta la cosa, no, ma ritorniamo invece a questa cosa curiosa di Di Pietro. Lei dice, io lo guardo e passo avanti, no? Cioè proprio non lo considero un uomo di destra tosto. Insomma, non è stato il più ipocrita su questa storia dei finanziamenti, vuole adesso raccogliere. No, è una bella gara, vediamo alla fine, perché non è finita ancora la gara. Ma chi è? Chi è la bella gara? Guardi, chi è in testa? No, guardi, su questa cosa non mi trascina, non farò nome. Non fa nomi. Il più ipocrita di tutti, quello che ha sentito in questi giorni, che l'ha fatto venire il volta stomaco, uno solo, non facciamo così, però uno solo. No, non c'è, no, ma li rispetto, perché hanno una posizione legittima. Beh, magari l'hanno cambiata, magari pigliano i soldi. Un ipocrita. Ipocrita significa pigliare i soldi, pigliare i soldi e poi protestare, questo sì. Ma questo lo fate, lo vedete voi da soli. Per me, quelli che vogliono parlare con me di questo problema, parliamo, rispetto le loro posizioni legittime. Spesso non si sono mai interessati di queste cose, quindi si affidano ai vostri commenti, ai talk show, alle trasmissioni, ai titoli dei giornali. Poi uno ci parla, gli spiega, che ne so. Io dice, allora facciamo il 5 per 1000. E io gli dico, scusate, ma il 5 per 1000 è una stronzata, il 5 per 1000. Prego? È una stronzata, il 5 per 1000. No, no, perché dopo queste parole? No, io cerco di ragionare, guardate che 5 per 1000 c'è già per le associazioni di volontariato, le Ollus, le associazioni di ricerca contro il cancro, contro la distrofia muscolare, via scorrendo. Perché ci andiamo a mettere contro questo mondo, che è un mondo che fa cose eccezionali? Quindi favoriamo, continuiamo a favorire quella cosa. Poi dice, vabbè, ma l'elettore deve scegliere, Parenzo. Quando voi andate a votare, se ci andate, ci andiamo. E esprimete un voto valido, voi fate una scelta, esprimete un voto per il partito, e nel momento in cui mettete quella crocetta, avete deciso che quel ma non di dare i quattrini pure, ma non di dare i soldi anche. Aspetti, la norma è così. E beh, la norma è così, per me bisognerebbe cambiarla. Troppi quando soldi. Lei fa la crocetta, decide automaticamente che quel partito prenderà 70 centesimi per 5. Ma io sono contrario a questa cosa, ho capito. Lei non vada a votare. Ah, cioè o uno è d'accordo con la norma o non va a votare. Beh, questo è curioso però, Sposetti. Questa mi sembra un'assurdità. Io sono d'accordo per votare quel partito, ma nello stesso tempo non voglio dargli tutti quei soldi. Scusi. Ma lo fanno in Francia, lo fanno in Germania. Vabbè, ma in modo diverso, non arrivano tutti questi soldi. Su, lei lo sa benissimo, meglio di me. Comunque, mi dicono che il titolare ultimo delle fondazioni in realtà è lei di tutte queste fondazioni. È vero o falso? È falso. È falso. È fatto, cioè, se lei volesse non potrebbe sparire con Malloppo. Ma quale Malloppo? No, con tutto questo patrimonio, con i debiti. È Parenzo che non capisce. Questa è la cosa, solo voi potevate inventare. No, ma è Parenzo che l'ha inventato. No, mica ma io. Dico, ma figa so io. Parenzo, sei un ragazzo simpatico. Ecco, appunto. Fuggo con i debiti. Ecco, questa mi sembra una bella. Però lei cosa. Dice io non sono è titolare. È la novità del 17 aprile delle 20 e 15. Senta, ma chi è più a destra? Di Pietro? Chi è più a destra? Di Pietro o Renzi? No, Renzi no. No, ma però me lo dica, questo chiudiamo su questo, chi è più a destra, Di Pietro o Renzi? Ah, sicuramente Di Pietro. Di Pietro più a destra. Sì. Renzi è un simpatico capacazzo che non dovendo perdere tempo per farsi la barba, pensa a come rompere le scatole al PD. Comunque, è un'altra cosa. Comunque un uccellino mi dice che la firma pure su queste fondazioni ce l'ha lei, che può decidere cosa farne, cosa non farne, cioè, ovvero no? È assolutamente non vero. Falso. Respinge tutte le tra virgolette accuse. L'abbraccio fortissimo, grazie, a presto. Saluti. Auguri alla vostra trasmissione. Ma usate parole meno grevi. Da caserma. Sì, non serve. Vabbè, ogni tanto. Io la seguo uguale, però senza parole da caserma. Lei dice: ma perché in questo modo lei lo sa che adesso apriremo una discussione qua con la direzione, con l'azienda, per queste sue parole infinita. Mi ha dato un colpo, una coltellata al cuore con questa io frase. Lei? Sì, vabbè, metaforica naturalmente. Ah, no, ma io vi voglio bene. Voi lavorate, vi guadagnate da vivere onestamente. Grazie. Quindi, tutto rispetto. Traffico, grazie. No, anzi, borsa, grazie. Tutto rispetto. A tra poco, traffico, borsa, che cavolo c'è? La borsa, sì. Siamo qui, 20:37, 800-24-00-24. C'è stato un annuncio fatto all'inizio della trasmissione da Maurizio Lupi, vicepresidente del Senato, che ci ha detto, è una piccola storia, però interessante, significativa, cioè ha preannunciato il suo no al riconoscimento dell'estensione della copertura assicurativa, eccetera, eccetera, adesso la metto giù difficile, magari incomprensibile, alla compagna della signora Concia. C'è un caso che potrebbe diventare interessante, che è quello di Paola Concia, omosessuale, lesbica, sposata in Germania con Ricarda Trottmann, non so se si pronuncia così, che vuole che sia possibile riconoscere, estendere la copertura assicurativa per i deputati anche alla sua compagna, perché succede anche alle coppie di fatto eterosessuali, cioè parlamentari che convivono insieme a delle persone possono, pagando naturalmente, estendere la copertura assicurativa della Camera o del Senato alle loro compagne / compagni. Sentiamo Lupi su questo. Lei darebbe alla signora Concia, dato che vicepresidente della Camera, la possibilità di fare con un conguaglio di pagare i contributi anche per la compagna, per la convivente, la signora Ricarda? Beh, ne discuteremo al prossimo ufficio. Lei è favorevole o contrario? Io sono contrario. Sono contrario non perché non si debba garantire i diritti personali di ognuno, ma semplicemente perché quella è una forma assicurativa che prevede che siano coperti i familiari. I familiari, e dunque quella non è una famiglia. Quella non è una famiglia. Per la legge italiana, purtroppo no, cosa gravissima. Giuseppe da Trapani, intanto fra poco riparte la Borghezio Collection. Vai la zanzara, ci sono un sacco di persone che mi hanno scritto proponendosi per questa Borghezio Collection. Bisogna farla, col timbro della zanzara. Borghezio Collection, volume 1. Secondo me si può fare. Secondo me si può fare con tutte anche le foto dei migliori comizi, con tutti, come no, foto, momenti istantanei di vita di un deputato, di un nobile, come dire, di un nobile scassatore della Lega, grande scassatore sul Borghezio. Beh, scassatore non solo della Lega, rivoluzionario. Sì, la mia battaglia si potrebbe. Il titolo però mi ricorda, diciamo, qualcosa. No. La mia battaglia. Beppe Grillo su Sky TG24. Beh, la mia battaglia, sì, il Mein Kampf di Borghezio. Grillo a Sky TG24 oggi a Borgo Manero. Ma non hanno capito, non è uno stregone che gira imbonendo le piazze. Questo sono di fronte a qualcosa che non capiscono. Quindi, da 800.000 che sono iscritti a Facebook alla nostra pagina, diventiamo 42 milioni nel mondo. Non hanno capito che non combattono con un buffone o dei improvvisati, combattono con una tecnologia di cui non riescono a capire il significato. Eh beh, era Grillo, non riescono a capire il significato. Non è che sono tutti però così, no? dei poveri imbecilli, cioè, non è che sono tutti dei cretini e la tecnologia la conosce solo lui. Potrei rispondere a Grillo, poi magari in alcuni casi ha pure ragione, non dico nulla sul finanziamento ai partiti. Secondo me c'ha ragione, anche se quelle cose non è che le dice lui, le diciamo in tanti da tempo. Però non è che sono tutti cretini, cioè non è che internet o le cosiddette nuove tecnologie o questo tipo di comunicazione la conosce solo il signor Grillo. Ma che poi lui era quello che fino a qualche anno fa spaccava i computer. Come vabbè, adesso ne avrà spaccato uno in una, non no, mi ricordo in che occasione. C'era uno spettacolo in cui il signor Grillo lo so. Ho capito, quindi per carità, lui ha cambiato opinione e lo ritrova, non ci può scattare i coglioni adesso, che sa solo lui, fammelo dire così. No, certo. È quello che spaccava i computer, d'accordo? Vestito da Savonarola, lo avete capito? Il computer è morte, perché vi aliena, e spaccava il computer, adesso mi scassa i coglioni. E com'è che facevi la limitazione di Grillo? Fu contestata anche qua da varie persone, lasciamo perdere, per carità di patria. Com'era? No, ripetila, a questo punto ripetila. Non capite niente, poi avete delle persone lì dentro, la Confindustria, con questi signori che hanno dei nomi incredibili, nomi, no, Bomba 6, Bomba, allora noi diciamo, avete capito, non avete capito nulla, Bomba 6. No, ma scusi, Grillo, che male ha fatto il signor Bomba 6? Ma anche no, il nome mi incute paura, Bomba 6, perché si chiama così? Va bene, 800 24 00 24. No, non ti voglio far cacciare. Devo anche dire che la frase prima di Sposetti, ragazzi, meno parole da caserma, ha già rallegrato il nostro direttore Fabio Tamburini, che mi ha subito mandato una mail dicendo viva Sposetti. E io dico viva Sposetti, dico anche viva Tamburini, ma lo dico senza piaggeria. No, senza te, io dico viva Sposetti, viva Tamburini, anche mio direttore, viva Maurizia Paradiso, anche dico. E viva anche Maurizia delle volte con grano salis, come si dice. Vabbè, prima della Borghezio, viva Squinzi, fammelo dire, perché tanto quello voglio dire senza piaggeria. Sì, dillo. Viva Squinzi, cioè, l'editore va omaggiato, lo capisci, i radioascoltatori devono sapere che noi omaggiamo l'editore, c'è il diritto del giornalista che lavora per la testa di omaggiare l'editore, siccome va omaggiato ogni giorno l'editore. Allora tu devi dire, caro signor Squinzi, la ringrazio per ospitarmi qui sulle frequenze di Radio 24, esatto, la ringrazio umilmente, e dovresti andare in trasmissione con una maglietta con la foto di Squinzi, magari metti anche la maglietta del Sassuolo e la maglietta della squadra di ciclismo dello stesso Squinzi. Lo farò, io tanto vado sempre in bicicletta, da bambino, voglio dire, Squinzi, e lo farò, perché giusto la gente sappia che noi siamo lì, il nostro editore su Squinzi, a Confindustria, e quindi una certa trasparenza assoluta. Vabbè. Facciano la stessa cosa gli amici di me, in onda con la maglietta il signor Pier Silvio. Bene, prima di questo ennesimo slinguazzamento di Parenzo e della Borghezio Collection number 2 di questa sera, andiamo con Giuseppe da Trapani. Sì, Giuseppe, che sta facendo? Con comodo, No, non è con comodo, è che da molto che aspettavo. Buonasera. Buonasera, dica. Ascolti, io sentendo le parole di Borghezio, sinceramente, che vuole aggiungere una stellina alla bandiera americana, dico io, è meglio che loro vendano le cose loro, piuttosto che vendere la figlia agli americani o svenderla, perché a quanto pare la palla al piede non la vogliono avere. Io penso che più che avere loro la palla al piede, siamo noi ad avere la palla al piede del nord, perché le nostre raffinerie siciliane danno a loro il petrolio, prima di tutto, perché noi produciamo il 15% di petrolio per il fabbisogno nazionale, raffiniamo il 40% di petrolio per il fabbisogno. Vabbè, allora non entri nel dettaglio, però non è che qui bisogna fare l'esegesi storica o della situazione economica attuale per controbattere alle frasi di Borghezio, adesso non esageriamo. Delle stupidate, ecco, le dice tutti i giorni, e poi si dà grande risalto soprattutto a questa persona, più ma che altro dare risalto a queste parole che sono diciamo terra, diamo valore e soprattutto voce alle persone che dicono qualcosa di concreto, perché qua si parla di milioni tutti i giorni, ma la gente di milioni non ne sa neanche parlare, non sa parlare più al momento neanche delle 10 euro, perché non si conoscono più la realtà della Sicilia. Vabbè, allora che c'entra che c'entra questo con Borghezio? Borghezio ha detto che fosse per lui la Sicilia, la Campania, non so quali altre parti del sud, li venderebbe agli Stati Uniti. Siccome la cosa è tecnicamente impossibile, si sta parlando del nulla, è una provocazione. A vendere o a regalare o a svendere, quello che vogliono fare è la parte del nord. A proposito di Borghezio, Breivik, farei tutto di nuovo, rifarei tutto di nuovo. Oggi sentiamo. Addio. Non erano innocenti, ma attivisti politici che promuovevano il multiculturalismo, dice. Al di là delle affermazioni, ora si basa tutto sullo stato mentale di Breivik. Non erano innocenti quei poveri ragazzi che ha ammazzato 77 persone. Vabbè. Parenzo, traffico. Torniamo tra un attimo con la Borghezio Collection number 2, numero 2. Alcune delle idee espresse al netto della violenza, direi in qualche caso ottime. Questa era su Breivik, che iniziamo così la Borghezio Collection number 2, elaborata da Radio 24, fra poco in vendita sul sito della Zanzara, la Borghezio Collection, volume secondo. Iniziativa editoriale di Cruciani, certo. Il torinese dice alla regalamla, che cosa fa, anziché buttarla via mettiamola sul balcone. Io almeno me l'avessero regalata, la mettevo anch'io sul balcone, anche perché ci fanno sempre la popò, io non sono mai in casa, i colombi, e serve anche per pulire. Questo sul tricolore moderato, come al solito moderato. Poi vabbè, la mitica l'Italia non conta, ce l'abbiamo. Detto con tutto rispetto? No, l'Italia, detto con diciamo il massimo rispetto per tutte le autorità civili, penali, eccetera, eccetera, religiose, civili, sacre, eccetera, non conta un cazzo. Questo è quello che vede l'europarlamentare Borghezio dalla sua visione europea. Non contiamo un cazzo. Eh beh, ci voleva nel volume secondo della Borghezio Collection. Per me questo lo può riascrivere, posso riascoltarlo 200 volte, ma mi rimette sempre di buon umore. Ma lo so, io lo faccio apposta perché la cosa ti mette di buon umore, lo faccio apposta. Ripeto, questa è una grandissima iniziativa della Zanzara. Abbiamo la Borghezio Collection fra poco in vendita, cari ascoltatori, fra poco in vendita. Conclusione adeguata, la secondo volume della Borghezio Collection. Domani continuiamo col 3, col 4. Padania libera, del resto non ce ne frega un cazzo. Ma Filippo da Grosseto. Padania libera. Libera. Subito ieri. Roma puzza. Solo la Padania. Solo sempre solo la Padania. Se gli altri non ce ne frega un emerito cazzo. Padania libera. Libertà. Non riesco a fermarlo. Questa non te la ricordavi? No, questa è meravigliosa. Non te la ricordavi questa, cari ascoltatori? Voi dovete vedere, peccato non c'erano ancora telecamere all'epoca, dovete vedere la faccia. Era Bruxelles, Strasburgo, lo ricordo, ed era praticamente il primo intervento di Borghezio dopo il famoso episodio di Breivik. E a un certo punto ha sbroccato, è impazzito. Padania libera! Faceva così. No, diceva non ieri, oggi. Ieri, oggi, domani, sempre. Cosa folle. Vabbè, così la Borghezio Collection, fra poco, ripeto, in vendita sul sito della Zanzara. Grandissima iniziativa, colpo di genio di oggi del sottoscritto, tanto per incensarsi. Sabasandir. Vabbè. Tina dalla provincia di Milano, signora Tina. Pronto. Eccoci. Eccoci, chiedo scusa per prima, il dottor Cruciani mi era impegnata in una corsa con la figlia di mia nipote. No, vabbè, ma tranquillo. Facevamo jogging. E sì. Io avevo chiamato per formigoni, però se mi consente, visto che uno adesso più di mezz'ora, tre quarti d'ora che sono fermo in macchina, allora? Ho sentito tutto la tiritera di Lusetti, ecco. No, Sposetti, non Lusetti, Sposetti. Vabbè, comunque sì, lasciamo perdere. Allora? Sposetti ha ragione, Lusetti è un'altra cosa, è quell'altro che non mi sta per niente simpatico anche lui. Volevo dire che sbandierare 420 che loro hanno fatto investimenti, hanno fatto regali in Africa, Burkina Faso, eccetera, eccetera. Sì, però quei soldi nostri, la bella figura l'ha fatta loro, ma i soldi erano i nostri in sé per quello. E noi non glieli vogliamo proprio più dare, punto. Se lo devono mettere. Lo so, ma Sposetti questa cosa qua non la capisce, cioè nel senso secondo lui è giusto, anzi in un certo momento con partiti che erano ridotti a partiti sudamericani, come ho detto, addirittura questa legge ha salvato la democrazia. La democrazia. Ma certo, e invece Tina, che vuole fare? È così, la pensa così, non è che lo possiamo ammazzare. No, sta pure simpatico. No, ma io la penso come lei, invece si figuri un po'. Per me dovrebbe essere aboliti definitivamente, si figuri un po'. Minima parte dovrebbe rimanere proprio in minima parte quando uno però è in grado di raccogliere finanziamenti privati. Appunto, ecco, con un 5 c'è una grande proposta da parte di un economista, non mi ricordo chi. E in questi giorni credo che sia Lesina, se non sbaglio, che ha detto beh, per ogni 100 euro raccolti privatamente da un partito poi c'è un contributo del doppio da parte del pubblico. Vabbè, Tina, la ringrazio. Antonio da Napoli. Buonasera, volevo fare una precisazione sulla dichiarazione di Formigoni. Perché a parte la bestemmia che c'è, perché dire che Gesù ha sbagliato, tra l'altro detto da un essere umano, mi sembra più che una bestemmia. Ma la cosa che invece ci potrebbe stare in comune con Gesù è che Gesù sapeva già che c'era il traditore Pietro, e che c'era anche Giuda che lo tradiva poi dopo. Quindi, insomma, Gesù, come Formigoni, già sapeva chi potevano essere potenzialmente i suoi traditori. Solo che Gesù l'ha fatto per dare un esempio all'umanità. Formigoni, quindi, può essere che già lo sapeva. Questa è l'unica cosa che potevano avere in comune. Va bene Antonio, sì, ripeto, poi, secondo me è stato un piccolo lapsus, cioè una, in realtà poi ho ripetuto due volte, per cui non tanto lapsus, mi sbaglio su questo, durante la trasmissione di Lerner, il paragone con Gesù, adesso sinceramente è vero che lui è il celeste, pensa di essere, insomma... Un po' esagerato, Ma sai, stare lì sempre al 31esimo, se non mi ricordo che piano è lì, del Pirellone. Non c'è più il Pirellone ormai, è un altro palazzo. Beh, l'altro grattacielo comunque è sempre, sempre molto più alto, sì, molto sempre alto. Più alto. Lì sai, quando sei lì in alto a un certo punto puoi pensare di essere anche... Perdonali padre, non sanno quel che fanno, dovremmo dire. Capito? Giuseppe da Crotone, buonasera. Buonasera. Dica. Sì, no, ho sentito il senatore Sposetti che si lamentava in un certo senso per l'atteggiamento di Renzi, il sindaco di Firenze. Sì. Ma Sposetti secondo me ha ragione. Renzi, purtroppo, per i fiorentini e per Firenze, offende la città una città come Firenze. Renzi dovrebbe acculturarsi un pochetto. Per una città dello spessore culturale come Firenze, Renzi non... insomma, è un ragazzotto un po' rozzo. Adesso questo lei sta a Crotone, che ne sa lei, scusi Giuseppe, chiama da Crotone per dire che Renzi non è adatto a fare il sindaco di Firenze. Adesso questo francamente mi sembra esagerato. Pensi a Crotone, scusa. Pensi a Crotone, a quello che succede a Crotone, no a Firenze. Poi può giudicare Renzi per quello che dice sulla politica nazionale, eccetera, ma per come amministra Firenze lo faccia giudicare ai fiorentini se è adatto o no. Abbia pazienza. Da Crotone, lì. Silvano, provincia di Bergamo, 30 secondi. Silvano. Buonasera a lei ascoltatore. Niente, io volevo, visto che voi fate la Borghezio Collection, sì, starei aspettando una Napolitano Collection, una Monti Collection. Se uno dicesse delle stronzate, lo potremmo pure, o delle sparate anche divertenti, potremmo pure utilizzarle. Siccome hanno un altro stile, non si può fare. La ringrazio, ci sentiamo domani 18:30. Ciao. La Zanzara.